frequenze Sui Generis. Innamorati del femminismo. E ciao a tutte e tutti, ben ritrovati e ben ritrovate a una nuova puntata di Frequenze Sui Generis, la trasmissione che vi tiene compagnia ogni lunedì dalle 14.30 alle 15. Oggi in studio sono sola, sono Viviana, ma non sarò sola a lungo perché fra un po' sentiremo al telefono le ragazze di Non Una Di Meno. È una puntata, sarà una puntata molto, molto densa perché parleremo delle manifestazioni che si sono svolte in tutta Italia lo scorso sabato 26 maggio, ma non vi anticipo nulla, partiamo con la recensione musicale e oggi a tenerci compagnia saranno i Comaneci. I Comaneci nascono nel 2005 a Ravenna, fondati da Francesca Amati, alla quale dal 2009 si affianca, dopo un paio di LP autoprodotti e un primo album, Volcano, Glauco Salvo, con chitarra e banjo. Seguono una lunga serie di concerti in Italia e all'estero, accompagnati tra il 2009 e il 2012 dalla produzione di due dischi. Dal 2017 il batterista Simone Cavina entra in pianta stabile nella formazione. Anima del gruppo, Francesca Amati, cantante anche degli Emiken B. I Comaneci sono una realtà che pare fare dell'intimismo una bandiera. Canti delicati, musiche leggere, in punta di piedi. Nell'ascolto si può sentire che ogni brano è spogliato di ogni utile orpello. E andiamo subito ad ascoltarci Satisfied Girl. Siamo al telefono con Maya e Angela di Non Una Di Meno Bologna. Benvenute a Frequenze Sui Generis. Ciao, grazie dell'ospitalità. Idem, ciao. Lo scorso sabato 26 maggio c'è stata una grande manifestazione a Bologna, ma anche in tutta Italia. Non Una Di Meno era in piazza. Perché eravate in piazza? Ciao, innanzitutto un saluto a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori. Noi eravamo in piazza con un insieme di rivendicazioni, come tu stessa hai detto, non solo a Bologna ma in tutta Italia, per parlare dell'interruzione volontaria di gravidanza e di tutte le limitazioni che oggi abbiamo per un certo lato, che si riferiscono innanzitutto all'abuso di obiezione di coscienza, che raggiunge una media nazionale del 70%, ma in alcuni casi, a seconda delle città o delle regioni, un 100% o 90%, tale per cui oggi abortire, diciamo, in legalità, maternità in Italia inizia a essere un problema realmente serio. Diciamo molto più di 194, poi Angela ci spiegherà bene, un po' meglio, un po' più in dettaglio la genesi e alcune problematiche di questa legge, perché vogliamo gli obiettori fuori dalle strutture sanitarie pubbliche e anche dalle farmacie. Ci teniamo a ricordare che alcuni farmacisti e farmaciste si rifiutano di somministrare la pillola del giorno dopo o dei 5 giorni dopo, ma ricordiamo che queste entrambe sono contraccezioni di emergenza, non sono pillole abortive, come invece è la RU486, per cui i farmacisti e le farmaciste non rientrano nei termini di legge, per cui all'articolo 9, la 194, prevede che ci possa essere obiezione di coscienza per interruzione volontaria di gravidanza, ma l'obiezione dei farmacisti e delle farmaciste è completamente illegittima. Questo stesso articolo 9, che prevede l'obiezione di coscienza, però vieta l'obiezione di struttura, ossia in un singolo presidio sanitario ospedaliero ci deve essere anche del personale non obiettore, e questa è una delle ragioni per cui siamo in piazza, perché così non è. Chiediamo che ci sia nella didattica della formazione medica una impronta, diciamo, non ideologica ma molto chiara sulla somministrazione di RU486, ne chiediamo l'estensione, l'adozione, perché oggi si fanno aborti farmacologici solo nel 15% dei casi, e la sua estensione a 63 giorni. Ma diciamo le ragioni per essere in piazza, che non possiamo adesso ovviamente comprimere in pochi minuti, attengono a una lettura appunto non tecnicistica ma complessa, sociale, culturale, politica, su quello che riteniamo essere un vero e proprio attacco e un tentativo di, attraverso, come è sempre stato, attraverso il controllo della riproduzione che passa, diciamo, per i corpi delle donne, una riconduzione a ruoli di genere estremamente statici, donne come madri, una destinalità, un destino per le donne di essere madri senza che questo senza che la scelta di non esserlo sia contemplata, laddove le nostre vite sono assai più complesse e molte di noi non vogliono essere incinte, alcune nate donne non si definiscono donne, ma ci sono una serie di problematiche ampie. Questa pressione sociale e politica a ruoli di genere tradizionali, tra virgolette, di maschilità e femminilità e di relazione all'interno, quindi di una coppia riproduttiva, che sia, come dire, una famiglia sposata o meno, quegli stessi luoghi di famiglia e di coppia in cui, fra l'altro, come sappiamo, si consuma il maggior numero di femminicidi e di violenze contro le donne. Shh. Abbiamo visto che fra obiettori di coscienza, pressioni sociali, è piuttosto difficile abortire in Italia. Sono passati 40 anni dalla legge sull'aborto, quindi vorrei chiedere ad Angela di ripercorrere molto brevemente la storia della 194, quindi cos'è questa legge e che genesi ha avuto? Allora, questa legge in qualche modo scontenta tutte le anime del movimento che l'hanno preceduta e adesso vediamo brevemente perché. C'è sicuramente una ragione nel 1978 per festeggiare in ogni caso quando viene varata la 194 e questa ragione consiste nella depenalizzazione dell'aborto, ecco, e forse l'unico obiettivo che la legge 194 raggiunge davvero, perché prima della 194, è bene ricordarlo, in Italia sia la contraccezione che l'interruzione volontaria di gravidanza erano regolate da due articoli del codice penale Rocco, il codice penale fascista per intendersi, quindi fino al 70, diciamo 71 per la contraccezione, 78 per l'aborto stesso, noi abbiamo utilizzato delle vere e proprie norme fasciste che condannavano a 5 anni nel caso dell'aborto la donna consenziente e il medico, ma non condannavano chiaramente l'uomo coinvolto, secondo evidentemente un'interpretazione da Immacolata Concezione, come dire, e venivano anche condannati i medici che diffondevano gli anticoncezionali. Pensate che la pillola anticoncezionale non era prescritta come, per quanto già in commercio, non era prescritta come un contraccettivo, appunto, ma come un farmaco che dovevano regolare la vita ormonale della donna. Questo era il contesto pre-194, quello legale, ecco. Quindi se un obiettivo la legge lo raggiunge è sicuramente quello di liberarci dal reato vero e proprio, ecco, depenalizza. Però questo non vuol dire che la 194 afferma che l'aborto sia un diritto, diciamo, senza se e senza ma, perché la 194 questo purtroppo non lo fa, e basta leggere il titolo volendo, no? Non è una legge che titola interruzione volontaria di gravidanza, titola tutela della maternità, e nel suo primo articolo non parla direttamente di aborto, ma parla di diritto alla procreazione responsabile e tutela della vita umana fin dal suo inizio. Se la legge fosse stata scritta dalle femministe che tanto si erano battute per la depenalizzazione, sicuramente il primo articolo sarebbe stato molto diverso, ecco. Come sono andate le cose? Perché la legge non l'hanno scritta le femministe, i comitati di donne, i vari collettivi anche della società civile? Perché gli anni 70 erano tutti, come dire, in fremito, no? Per quelli che oggi vengono chiamati diritti civili, ma che poi sono i diritti sessuali e riproduttivi in questo caso specifico. C'erano sicuramente molte anime del movimento femminista, quindi molti femminismi. Ricordo due posizioni soprattutto, la prima quella di Rivolta Femminile, che sosteneva non c'è bisogno della legge, basta la depenalizzazione. E quindi appunto in questa parte del movimento femminista la 194 non la voleva, per intendersi, perché qualsiasi legge sul corpo delle donne avrebbe fatto male, come darle torto col senno di poi, insomma. Poi c'era invece l'MLD, il Movimento di Liberazione della Donna, che insieme alla Lega 13 Maggio, vale a dire l'Espresso, vale a dire l'AIED, tante realtà appunto che si impegnavano in quel periodo, non chiedevano solo la depenalizzazione, chiedevano anche una normazione dell'aborto, normazione che però non andava verso l'aborto di Stato, completamente medicalizzato negli ospedali pubblici, perché quello che loro chiedevano era la liberalizzazione, che è diverso dall'aborto solo nelle strutture sanitarie pubbliche. Liberalizzazione in qualche modo avrebbe voluto dire che non avrebbe oggi ragione d'essere, ad esempio, quella norma che ancora ci punisce, per dire, noi oggi abbiamo le sanzioni amministrative per le donne che ricorrono all'aborto fuori dalle strutture sanitarie pubbliche. Questo vuol dire cioè, se mai si fosse raggiunto l'obiettivo della liberalizzazione, una donna che per abortire sceglieva l'autogestione o la vicinanza a gruppi di autoaiuto, cioè il famoso self-help con altre donne, eccetera, non, o che per qualsiasi altra ragione in ogni caso sarebbe ricorsa a un tipo, diciamo, di aborto clandestino, tra virgolette, comunque non era una donna che poteva essere perseguita. Invece la situazione che noi abbiamo oggi è che se abortisci fuori da una struttura sanitaria pubblica vieni anche sanzionata. Ora, considera che questo è un cortocircuito notevole, perché in realtà gli aborti, i cosiddetti aborti non sicuri, che appunto è una dicitura sicuramente migliore di aborto clandestino, come dire, l'aborto non sicuro è quello che avviene, diciamo, senza una consapevolezza dei mezzi, dei farmaci che si stanno usando, ed è un aborto che può essere in qualche modo a rischio salute. Ecco, noi non abbiamo una vera stima di quanto sono oggi questi aborti non sicuri, purtroppo, perché la relazione del Ministero, che viene ogni anno appunto pubblicata sul Ministero della Salute, perché quella relazione non cambia il dato sugli aborti clandestini da più di 15 anni, quindi è poco credibile che noi negli ultimi 15 anni abbiamo avuto sempre solo 55.000 aborti clandestini, per intenderci. Ecco, questo dato in qualche modo cambia nell'epoca dell'online, no? Nell'era dell'online noi non possiamo più contarli solo in base al numero di donne che si recano in un pronto soccorso per assunzione di troppe prostaglandine, no? Anche perché poi non è che dichiarano tutte. Dovremmo anche cercare di capire chi compra online la RU486, ad esempio. Ecco, noi questi numeri non li abbiamo. Non li abbiamo. Però sappiamo che esiste, diciamo, esiste una fascia di popolazione, cioè, che chiamiamo sessuata al femminile, cioè un pezzo, ecco, di donne italiane ordina online la RU486. Lo sappiamo perché anche grazie alle attività del Centro delle Donne di Non Una di Meno di Bologna, in che si sono connesse a Women on Wave e Women on Web, che sono due organizzazioni no profit internazionali che aiutano le donne nei paesi in cui abortire è ancora un reato. E queste due associazioni ci hanno detto, e ci hanno anche mostrato i dati, che ricevono sempre più domande dall'Italia per la RU486. Ecco, questo già è un buon indizio. Un indizio che tra l'altro è anche sostenuto dalle percentuali a cui Maya già accennava di obiezione di coscienza. Se noi abbiamo il 70% di media nazionale dichiarato dalla redazione del Ministero, perché poi c'è chi, come la Laiga, l'Associazione Amica, le associazioni di ginecologi e ginecologhe non obiettrici, insomma, c'è chi dice guardate che in realtà sono anche di più. È già preoccupante quel dato lì, comunque il 70%, perché quel dato ci dice chiaramente che non è possibile che vengano assorbite le richieste di IVG nelle strutture sanitarie pubbliche se c'è il 70% di obiezione. Evidentemente quella domanda va da qualche altra parte, ma evidentemente al Ministero non interessa, no? Cioè interessa soltanto garantire quello che è un finto diritto del medico all'obiezione di coscienza. Ora, a questa situazione siamo arrivate, perché poi ho fatto un salto notevole, ammetto, mi chiedo scusa, torno al 1978, perché dopo anni di battaglie femministe che dicevano chiaramente tutt'altro di quello che c'è scritto poi nella 194, perché la 194 è stata scritta come è stata scritta? Ebbene, perché quando hanno depositato alla Corte Costituzionale le firme raccolte per scrivere la legge sull'aborto, le femministe insieme al Movimento di Liberazione della Donna, insieme ai radicali, eccetera, avevano raccolto più di 800.000 firme per scriverla la legge, non volevano farla scrivere al Parlamento, no? Ebbene, nel 76 il Presidente del Consiglio scioglie le Camere per una volta che il referendum viene dichiarato ammissibile, scioglie le Camere e alla fine la legge sull'aborto la scriverà il pentapartito, cioè soprattutto la Democrazia Cristiana. Non dobbiamo dunque, una volta appunto ricordata la storia, non dobbiamo stupirci poi tanto a leggere il testo di legge e non dobbiamo stupirci neppure se quelli che sembrano difetti sono stati usati come veri e propri strumenti per abuso di diritto. Allora, perché chiediamo molto più di 194? Perché diciamo che i difetti della legge sono stati proprio usati per svuotarla dall'interno? Perché appunto la legge lo permette. Un esempio è l'articolo 2 che dice che le associazioni che hanno nel proprio statuto la difesa della maternità, la tutela della maternità, possono siglare accordi con i consultori. In base a questo articolo il Movimento per la Vita, nelle sue varie forme, ma soprattutto il Movimento per la Vita, quello nato nel 1975, è entrato nei consultori pubblici e ha istituito questi centri aiuto alla vita che in realtà si interpongono tra la donna e il medico che deve firmare il certificato per l'aborto e appunto in quella sede cercano di convincere le donne a non abortire con vari mezzi, diciamo. Poi c'è l'articolo 5 di cui ha parlato già Maya, che è quello dei 7 giorni di riflessione, che anche appunto è assolutamente illogico, ma non mi soffermo su quello. C'è l'articolo 9 che è l'articolo dell'obiezione di coscienza, su cui in realtà vorrei dire che la prova che non regge più l'articolo 9, la prova che è assolutamente incostituzionale, non ci viene dall'Italia, ma ci viene ancora, diciamo, di più, e quindi ha ragione, dovremmo preoccuparcene, dal Comitato Europeo per i diritti sociali, che ha condannato l'Italia ben 2 volte a causa dell'articolo 9 per l'obiezione sull'obiezione di coscienza, dicendo nella prima sentenza, che è simbolicamente uscita l'8 marzo del 2014, dicendo che l'articolo 9 è una discriminazione in base al sesso, perché non esiste nessun altro intervento medico riservato o solo agli uomini o solo alle donne che ha appunto la possibilità per il medico di obiettare, e quindi rappresenta una vera e propria forma di discriminazione che mina il diritto alla salute e alla libera scelta. La seconda sentenza, sempre del Comitato Europeo per i Diritti Sociali, dice che c'è ancora un'altra discriminazione in corso a causa dell'articolo 9, ed è quella tra medici, tra professionisti del settore, perché l'articolo 9 permette al medico o al personale sanitario di rifiutarsi di eseguire un'interruzione volontaria di gravidanza, ma non chiede nulla in cambio, no? Cioè, non è che devi fare qualche altra cosa nel frattempo, che so, diffondere una cultura della contraccezione, poteva essere logico. No, non viene previsto nulla, questi medici fanno obiezione e possono fare carriera, ricerca, compiacere il proprio primario e via dicendo, mentre il medico non obiettore si fa carico di tutto il lavoro che l'obiettore non fa. Chiudo su invece la RU486, appunto, la legge, la 194, dice che gli ospedali devono aggiornarsi costantemente sulle nuove tecniche abortive. Quello che succede in Italia è che siamo al 15,7 di impiego della RU486. Se vogliamo fare un piccolo confronto europeo, vediamo che sono al 90% in Svizzera, al 98% in Finlandia. Cioè, non c'è alcuna ragione. Quindi noi vorremmo, in questo molto più di 194, metterci anche e soprattutto un ricorso maggiore all'aborto farmacologico, perché anche quello meno invasivo per la donna, no? Quello che le permette di vivere l'aspetto meno medicalizzante della procedura. E per questo sosteniamo anche una petizione che in questo momento è online su Change, che si chiama proprio molto più di 194, e che chiede la RU486 a 63 giorni e non solo il regime ospedaliero, anche il regime consultoriale. Bene, quindi chi fosse interessato può trovare questa petizione su Change. Noi vi ringraziamo moltissimo perché ci avete dato moltissime informazioni, anche spunti di riflessione, e speriamo di avervi di nuovo ospiti. Grazie. Grazie a voi. E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Ringraziamo ancora Maya e Angela di Non Una di Meno Bologna per questa intervista. È stato molto interessante ripercorrere con loro la storia della 194. Noi speriamo che anche voi l'abbiate trovata di vostro interesse, e vi ricordiamo che per qualsiasi domanda, richiesta, dubbio o informazione vogliate chiedere, abbiamo la nostra pagina Facebook Frequenze Sui Generis, dove pubblicheremo anche il podcast di questa puntata per poterla riascoltare. Quindi seguiteci su Facebook. Alla prossima puntata vi lasciamo con l'ultimo brano dei Comaneci, Notte.